Seconda stazione. Gesù prende la croce sulle spalle. Così, mio adorato Signore, comincia il tuo cammino verso il luogo dell'immolazione. Il Padre Celeste non ha voluto che fossi ucciso con un colpo improvviso. Con la tua passione dovevi insegnarci non soltanto a morire, ma ad affrontare la morte. Ad affrontarla con serenità, senza esitazione né debolezza, avanzando perfino verso di essa con il passo deciso del guerriero che va in battaglia. Ecco la mirabile lezione che mi dai. Di fronte al dolore, mio Dio, come sono vigliacco. Ora temporeggio prima di prendere la mia croce, ora indietreggio tradendo il dovere, ora finalmente lo accetto, ma con tanto fastidio, con tanta debolezza, che sembro odiare il fardello che la tua volontà mi pone sulle spalle. In altre occasioni, quante volte chiudo gli occhi per non vedere il dolore. Mi rendo volontariamente cieco con uno stupido ottimismo perché non ho il coraggio di affrontare la prova e perciò mento a me stesso. Non è vero che la rinuncia a quel piacere mi si impone per non cadere in peccato. Non è vero che devo vincere quell'abitudine che favorisce le mie passioni più radicate. Non è vero che devo abbandonare quell'ambiente, quell'amicizia che minano e scuotono tutta la mia vita spirituale. No, niente di tutto questo è vero. Chiudo gli occhi e getto da parte la mia croce. Mio Gesù, perdonami tanta pigrizia e cura, Padre misericordioso, per la piaga aperta sulle tue spalle dalla croce, l'orribile piaga che ho aperto nella mia anima con anni interi vissuti nella rilassatezza interiore e nella condiscendenza verso me stesso.